verso i paesi poveri, ma quello che ci ha preoccupato soprattutto anche, sono anche le piccole realtà, perché poi alla fine uno si scontra con la situazione internazionale per poi arrivare a quella nazionale, quindi rendersi conto anche di come queste potenze sfruttino delle zone depresse, soprattutto dell'Italia, perché la fabbrica Domus Novas sta in una delle zone più depresse dell'Italia, quindi con un ricatto occupazionale fa in modo di potersi imporre all'interno di una piccola società e di mettere in crisi tutta la realtà sarda, che comunque si trova in una situazione lavorativa abbastanza precaria. Mm-hmm. Avete avuto anche contatti con i lavoratori e cosa vi hanno detto? Con i lavoratori, diciamo che più che altro non lavoratori diretti, siamo entrati a contatto soprattutto con l'indotto che è intorno alla fabbrica, perché come ti dicevo prima, questo ricatto occupazionale fa in modo tale da tenere molte bocche cucite, tenere molte bocche chiuse, perché sono contratti quelli dei lavoratori diretti che vengono rinnovati anche di 15 giorni in 15 giorni, quindi comunque tramite questo ricatto tenerli in silenzio è molto facile. Siamo entrati a contatto con l'indotto che gira intorno, quindi con camionisti, ma soprattutto operatori portuali. Siamo riusciti ad entrare a contatto con un operatore portuale che ci ha spiegato un po' che viaggio facessero queste navi, da dove arrivavano, quando venivano caricate e dove erano dirette. Avete avuto difficoltà nell'accesso a dei canali e poi soprattutto a farlo vedere questo lavoro? Sì, diciamo, ma non credo che ci siano particolari motivazioni politiche per cui stiamo avendo difficoltà. È un po' difficile in generale fare inchieste e soprattutto video, trovare un, diciamo, magari trasmissioni o format che siano disposti ad accoglierla. Comunque c'è stata una prima proiezione a inizio novembre su Rai News 24, è andata in onda in esclusiva, questo già ci ha permesso appunto di parlare un pochino del nostro lavoro e ora speriamo di poterlo diffondere anche di più, perché comunque in questo momento politico è molto importante chiarire un po' la solidarietà di fatto che c'è tra tutti questi paesi quando si tratta di affari che riguardano le armi, no? Per cui al di là di tutte le dichiarazioni politiche che vengono fatte dai vari capi di governo contro la guerra in Yemen, contro l'esportazione degli armamenti, poi di fatto attraverso una serie di escamotage legali, attraverso viali all'estero si riesce a ovviare a tutte queste questioni, quindi sarebbe importante parlarne e diffondere il più possibile queste informazioni. Nei confronti di questo traffico si sta muovendo qualcosa? Diciamo che c'è stato un blocco dell'export da parte della Germania, c'è stato un blocco dell'export in Danimarca, in Norvegia e in Olanda, però diciamo che il problema comunque rimane, perché poi le filiali non sono direttamente sotto la responsabilità del governo nazionale, quindi ognuna di queste grosse aziende esporta fabbriche fuori dal confine nazionale, quindi di fatto poi la legislazione interna non riesce a impedire questo gioco che noi cerchiamo di gestire nel comunitario. E per quanto riguarda l'Italia, la reazione dei 5 Stelle al momento è un po' contrastante, un po' vaga, nel senso che siamo stati a una conferenza stampa in Senato e il Presidente della Commissione Affari Esteri ha dichiarato che hanno intenzione di riformare la legge sull'export, ma di fatto che però questa legge già c'è, è una legge molto chiara, è una legge molto dura e quindi non rimarrebbe che applicarla. In chiusura ci lasciate dei riferimenti web per saperne di più su questo lavoro e anche sulle messe in onda? Sì, allora noi rischieremo giovedì appunto di metterla in onda su Rai Play, poi usciremo con un pezzo sul Fatto Quotidiano, credo sempre giovedì o mercoledì, che ancora ci devono confermare la pubblicazione, e poi appunto ci sarà una prima proiezione in sala stampa esteri giovedì alle ore 15 in via dell'Umiltà qui a Roma, dove appunto parleremo insieme anche a Alberto Negri e Maurizio Simoncelli di Archivio Disarmo del nostro lavoro e di tutta la questione geopolitica che riguarda la guerra civile in Yemen.